a questo punto procediamo galoppando verso anche un'istantanea satirica di questa settimana, con tutte le cose che sono successe, che affido come sempre ogni settimana, ogni sabato, a Stefano Andreoli, fondatore di Spinoza.it. Scritto anche Spinoza, per chi non lo sapesse, ormai universalmente conosciuto, diciamo, è il blog di satira più cliccato dell'intero globo terracqueo. E Stefano Andreoli poi ha pubblicato anche recentemente un secondo libro, Spinoza, una risata vi disseppellirà. Sono riuscito a dirlo, ecco. Hai adesso, detto benissimo, scusami, sono prigioniero delle ferrovie, sono su un treno in ritardo, quindi potrebbe tanto per cambiare, mia, come è possibile che sia in ritardo un treno in Italia? Strano. Quindi galoppiamo, sì. Perché potrebbe cadere la linea da un momento all'altro. Sei meglio col Calesse, sì? Scusa, un saluto appunto a Marcello Veneziani e al tuo ospite illustrissimo. Parliamo di referendum, l'11 e 12 giugno si voterà per il referendum. Non era il 12 e il 13? Ho sbagliato, allora voi andate l'11, preparatevi per tempo, volevo... scusate, ma sì, condizioni precari anche in questa imprecisione, scusate, non andateci l'11 a questo punto, trovereste chiuso. Si voterà per il referendum, ma solo nei seggi elettorali che aderiscono all'iniziativa, quindi è una cosa un po' particolare. 4 sì per dire di no. È un referendum a misura di donna, perché 4 sì per dire no, diciamo così. Si voterà di luogo comune, sì. Vabbè, passiamo avanti. Vabbè. Si voterà su Berlusconi e sull'uso del nucleare, ma sono due quesiti diversi, stiamo attenti, non è lo stesso quesito. Celentano ad anno zero è intervenuto per l'ennesima volta a favore del referendum. Per lui è questione di vita o di morte, per questo si chiamano urne. E gli interventi di Celentano, oramai, non so se ti sei accorta, sono l'unità di misura del decadimento dell'uranio, perché sono sempre più lunghi. È fantastico, Celentano riesce a appropriarsi dell'intera trasmissione. Comunque, libertà di coscienza, ognuno è libero anche di andare al mare, ovviamente, però auspichiamo una bella risposta, noi chiaramente, senza prendere posizione. Non possiamo che commentare finalmente liberi la nomina di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano, con un paio di battute. Dunque, conteniamoci. Berlusconi aveva dichiarato: se vince Pisapia, Milano si riempirà, le strade di Milano si riempiranno di criminali, drogati e nulla facenti. Si riferiva alla vecchia giunta. E vorrei chiudere con Berlusconi, che ha dichiarato dopo l'esito delle urne: Berlusconi dichiara, milanesi, adesso pregate Dio. Ma forse qualcuno di loro l'aveva fatto prima del voto. Molto ha funzionato. Mannaia su Stefano Andreoli. Grazie.